tenerezze, le proprie meschinerie, le proprie cialtronaggini, le proprie paure. Un momento difficile per chi sotto sotto non può fare a meno di chiedersi se sarà in grado di mostrarsi sempre all'altezza dell'immagine di sé che ha diffuso e continua a fare diffondere. Ahimè, in questo mondo imperfetto nessuno è immortale, nemmeno nella forma attenuata del praticamente immortale, per quante protvitamine e minerali della Via della Seta gli abbia prescritto il suo medico. Io sono sicuro che Berlusconi, se potesse, a letto non ci andrebbe proprio mai.